stessa che a volte esplode, sai cos'è? Energia vitale che ti rapisce e ti porta via. Forza indescrivibile penetra nel cuore, spacca tutto, grandi montagne senza far rumore. Non vedi ciò che è invisibile, non vedi ciò che è impossibile, non vedi ciò che è intoccabile, non vedi ciò che è improbabile. La bruma sai ti prende, sali in treno non si scende, la bruma ti rapisce e voli in alto al di là del cielo. La bruma sai ti scioglie come un gelato all'equatore, la bruma sai ti stende e vai su. Dentro me forse un angelo che vola e senza nell'aria dolcemente mi sorvola, esplode inafferrabile, blocca il mio respiro, immensamente invincibile, inafferrabile. Non vedi ciò che è invisibile, non vedi ciò che è impossibile, non vedi ciò che è intoccabile, non vedi ciò che è improbabile. La bruma sai ti prende, sali in treno non si scende, la bruma ti rapisce e voli in alto al di là del cielo. La bruma sai ti scioglie come un gelato all'equatore, la bruma sai ti stende e vai su. La bruma sai ti prende, sali in treno non si scende, la bruma ti rapisce e voli in alto al di là del cielo. La bruma sai ti scioglie come un gelato all'equatore, la bruma sai ti stende e vai su.